Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sono a spasso per Roma. Roma è una città veramente straordinaria, anche perché non c'è bisogno di entrare in un museo, non c'è nemmeno bisogno di entrare nelle sue chiese per vedere delle cose meravigliose. In particolare sono a Piazza Navona. Sono al centro della piazza dove si erge la celiberrima Fontana dei Quattro Fiumi, uno dei capolavori di Gian Lorenzo Bernini. Beh, sono qua e voglio osservare insieme a voi questa singolare struttura. Come sapete, la fontana è fatta da quattro piedi, diciamo così, di travertino, sopra il quale appoggia un antico obelisco, o meglio una copia romana di un obelisco egizio. L'artista dovette appunto immaginare che da quattro punti della terra, dai quattro continenti che a metà del 600 erano noti, cioè l'Asia, l'Africa, l'Europa e l'America, sgorgassero i quattro principali fiumi. Il grande Rio della Plata, che era il fiume più importante delle Americhe, noi capiamo che è quello lì perché vediamo un sacco di argento, di monete che cadono dentro l'acqua a giustificare il colore argenteo, perché plata in spagnolo vuol dire argento, e quindi lui gioca con questo fatto. Per esempio il Nilo lo riconosciamo benissimo, perché il Nilo è fasciata, la testa è fasciata. Perché è fasciata la testa del Nilo? Perché non si conosceva nel 600 quali fossero le sorgenti di questo fiume. Poi abbiamo il Gange. Il Gange lo si distingue dal fatto che c'è un enorme remo. In Europa si sapeva che il Gange era un fiume enorme, facilmente navigabile, ed ecco che Bernini escogita questa idea di fare un personaggio che rema con un gigantesco remo in questo fiume. E poi l'ultimo è il fiume per eccellenza europeo, cioè il Danubio, che è raffigurato naturalmente come una divinità antica ed ha vicino a sé un cavallo a ricordare appunto che è un fiume europeo. Il giorno dell'inaugurazione a metà 600 di questa fontana, Bernini fece uno scherzo al Papa, che era il suo committente, Innocenzo X. Tra l'altro la fontana è tutta un tripudio di stemmi di Innocenzo. Bene, fece una grande inaugurazione, tutte vennero, assistettero a questa grande inaugurazione, peccato che non c'era l'acqua. Nessuno osò dire al maestro come mai mancasse l'acqua, tutti si allontanarono un pochettino e Bernini diede ordine improvvisamente di accendere l'acqua e quindi sgorgò all'improvviso, tra grande sorpresa. Il Papa e il suo corteo furono costretti a tornare indietro per vedere questo scherzo di marmo del Bernini.